RadioTube Social Network. 5 minuti a RadioTube, la seconda ora in diretta del nostro RadioTube. La prima è stata quella con Social Village, abbiamo avuto con noi Alessandro Cattelan, Stefano Bollani, abbiamo parlato con Mattia Carzaniga di Tiger King, questa nuova serie assolutamente stracult, ne parleremo di altri true crime, documentari avvincentissimi su veri crimini, ma davvero sono addictive, come diceva Mattia Carzaniga, non ne puoi fare a meno se cominci a guardarli, e vi assicuro io non sono un'appassionata di thriller, di gialli, di delitti, ma queste cose sono tutt'altra cosa, torneremo a parlare la prossima settimana. E abbiamo parlato di questo documentario veramente bellissimo che andrà in onda domani su Sky, in particolare su Sky Arte, ma con, avete sentito, una programmazione tutta particolare accanto a questo evento, questo documentario su Alberto Sordi, che ci fa scoprire molte cose di Alberto Sordi, anche molte cose della storia d'Italia, della storia del cinema italiano. Seconda ora del nostro RadioTube è quella di RadioTube Social Network. Allora, RadioTube Social Network, che è come sempre l'attualità della rete e dalla rete in questo periodo, tanta nostra vita passa attraverso la rete, tanta nostra informazione, come sempre un co-conduttore d'eccezione, e in questo periodo sempre ai noi a distanza, non possiamo fare altrimenti, e diamo il bentornato a RadioTube a un carissimo amico, Francesco Canino. Ciao Francesco! Ciao Marta! Ciao, oh, come, guarda, come se fossi qua vicino, sei lontano ma come se fossi qua vicino. Meraviglie come direbbe della tecnologia. Mia mamma, esatto, signora mia, le tecnologie. Insomma, signora mia, le tecnologie. Sì. L'unica cosa che non ci possiamo abbracciare, vabbè, hai postato sui social una bella foto di un abbraccio qui negli studi di Radio 24 di un annetto fa. Di un annetto esatto, fa. Un anno fa. Esatto. Accidenti. Ma torneremo ad abbracciarci. Torneremo. Allora, come ti stai attrezzando per la Pasqua? Io ho comprato ho comprato la scorsa settimana la colomba e l'uovo perché temevo che finissero al supermercato. Devo dire che no, io quelli me li sono risparmiati, ma non sono un grande cultore dei dolci pasquali, purtroppo non vivo a Napoli, non sono napoletano, non ho origini napoletane. Se no mangerei volentieri casatielli, sì, che pastiere. Buono, vedo che la pizza in queste ore, il fenomeno pizza sui social è stato battuto dai casatielli, cioè vedo che chiunque ormai da Trieste in giù sforna casatielli a raffica. Quelli che hanno trovato farine lieviti, certo, ovviamente. Esatto. Che invidia, effettivamente quello sarebbe proprio buono. Vabbè, allora... Pasqua ovviamente in streaming i riti religiosi, ieri sera seguitissima la Via Crucis, domani un evento che sui social è stato annunciato così. Da solo nel Duomo di Milano, ovviamente in streaming. La cosa particolare di questo evento è che in questo teaser che è stato questa piccola anticipazione video che è stata postata sui social di Andrea Bocelli e non solo, si danno gli orari in tutto il mondo, perché ovviamente lui è un personaggio talmente planetario sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo, ma vengono indicati gli orari di ogni zona del mondo. Vuol dire che è un evento che farà parlare, Francesco. Credo che sarà un'altra di quelle immagini che ci porteremo nella testa e anche nel cuore, no? di, di tutto questo periodo così straniante, surreale, insomma, definiamolo come ci pare. Cioè, immaginarsi un artista appunto così planetario è veramente uno dei pochi, diciamolo, no? Perché poi in Italia tanti artisti si spacciano per artisti internazionali, non lo sono, lui invece lo è, e quindi sono veramente curioso di vedere come sarà questo concerto, visto che lui, ho già fatto una bella intervista al Fatto Quotidiano e l'ha definita la sua preghiera cantata. Penso che è un po' una preghiera laica, no? Diciamo, anche se poi canterà appunto dei brani religiosi. È un po' Sono curiosa, sì, sono è curiosa quello che anch'io. vogliamo, no? Quello che la gente cerca. Adesso, ieri sera ho visto che la Via Crucis ha fatto degli ascolti Sì, ci pazzeschi, sono dei insomma. titoli che mi fanno sorridere, la Via Crucis vince la guerra degli ascolti, mi ha fatto molto No, ridere come terribili, dai, espressione. speriamo. Comunque ha segnato il Posso dirti, Marta? 25% di ascolto, vuol dire Esatto. che forse ce n'è bisogno in questo periodo. Sì, ma io non ne sono stupito, nel senso che poi, a parte che trovo molto, molto, molto inelegante parlare di ascolti in questo periodo, In cioè trovo generale, inelegante, sì, devo dire, anche se poi ci sono, è giusto riflettere sui numeri perché ci dicono anche, ci danno un po' il polso della situazione. Ad esempio gli 8 milioni della Fiction, con Luca Argentero. Ci dicono comunque che al di là dei freddi numeri è nato un piccolo fenomeno. I 7 milioni e mezzo, 7 milioni e 8 della Via Crucis di ieri sera anche ci dicono comunque qualcosa, no? È evidente che con le chiese chiuse, la gente ha avuto, come dire, la possibilità di farsi guidare nella Via Crucis dal Papa ed è evidente, no? Questo non ci vuole un genio. Così come la messa della mattina trasmessa su Rai 1 continua a fare degli ascolti pazzeschi. Ti ripeto, è evidente che la gente ha bisogno anche anche diciamo di aggrapparsi a qualcosa, no? Di avere dei punti di riferimento stabili. Evidentemente il Papa, che è una guida spirituale, lo è, quindi non mi stupisco di questi ascolti. Allora, il Papa ne ha combinata una delle sue, possiamo dirlo senza risultare blasfemi, perché in realtà è una cosa molto simpatica. Ecco cosa è successo in TV su Rai 1. Allora, mi dicono, ti interrompo un attimo, Don Marco, mi dicono che sta arrivando una telefonata in diretta. Proviamo, pronto? Pronto? Buonasera Lorena, come sta? Papa Francesco, ben Ah, mi ha trovato. riconosciuto la voce. Sì, ho riconosciuto la voce, la ringraziamo di cuore per questo intervento, ma soprattutto per quello che sta facendo per ognuno di noi, per quanto sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze. Sono vicino a voi. Santità, se mi posso permettere, come sta vivendo lei, Papa Francesco, questi giorni? Ma oggi in questo momento penso al Signore crocifisso, no? E le tante storie dei crocifissi della storia, ma quelli di oggi, di questa pandemia, medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati, che hanno dato la vita per amore. Allora, devo dire, intanto brava Lorena Bianchetti, perché io non avrei mantenuto quella plomb, quella calza. È stata molto brava, Francesco. No, è stata bravissima. Allora, io sono in passato, confesso, sono stato un po' cattivello con Lorena Bianchetti. Poi in realtà l'ho conosciuta un po' meglio da un punto di vista professionale e in parte anche privato e ho cambiato idea. Devo dire che lei è stata bravissima perché io sfido chiunque a mantenere quella compostezza davanti a No, una infatti, cioè. chiamata. Anche perché io te lo posso dire per certo, perché non ho parlato con la Bianchetti, ma con delle persone che lavorano con lei, che lei non sapeva assolutamente nulla. Chiaramente ci sono state delle telefonate interlocutorie tra diciamo la CEI, perché quello è un programma a sua Della immagine Conferenza che in qualche Episcopale modo, Italiana. esatto, lei proprio non sapeva nulla di quella telefonata, che non è una telefonata così scontata, perché il Papa poi ha altro, no, a cui pensare, poi siamo appunto nel pieno delle funzioni per il Triduo Pasquale, quindi è stata bravissima. Cioè, lei è stata bravissima e devo dire che Papa Francesco a dire mi ha riconosciuto dalla voce. No, vabbè, ma lui è un uomo di comunicazione, adesso uno può essere o meno credente, ma è un uomo di comunicazione straordinaria. Però volevo dirti, non è neanche la prima volta, no? Perché poi telefono in diretta anche a 1 mattina, non so se sì, ti ricordi, sì. Quando conducevano la Fialdini e Franco Di Mare. E prima ancora tutti ci ricordiamo della telefonata di Papa Wojtyla a Bruno Vespa. In questo caso non so perché, ma mi ha colpito molto la Bianchetti, mi ha davvero colpito. Sì, poi lei, che è una donna sì. profondamente religiosa, è una di quelle che non si vergogna di dirlo, no? Perché poi tantissimo in televisione non si sa perché, ma c'è sempre un po' questo tabù della religione. Non tutti lo confessano così apertamente, quindi brava, devo dire brava. Sì, è stata brava, mi è piaciuto come ha reagito. Ovviamente poi questo video è stato condiviso in qualsiasi modo. Bello, è stato un bel momento. Allora, pausa per la viabilità, mi scuso perché sono già le 17:16. Poi torniamo insieme, parliamo di un po' di famiglie in rete in questo periodo e poi facciamo tornare Carosello, una magia, tra poco. RadioTube Social Network. Ecco sempre il nostro RadioTube Social Network. Effettivamente mi arrivano i messaggi, è stata bravissima Lorena Bianchetti, ma il Papa molto simpatico. Eh sì, lui è assolutamente spontaneo in queste cose. Sempre il nostro co-conduttore Francesco Canino. Francesco, parliamo di famiglie e quarantena. Allora, ascolta questo pezzettino di una sigla che insomma, riconoscerai subito. Vabbè, lo riconosci anche perché effettivamente inizia dicendo The Simpsons, è la sigla dei Simpsons. L'hai visto, Francesco, questo video di una famiglia canadese? Allora, scrivono, abbiamo fatto pulizia nella cantina, finalmente abbiamo dato un senso ai costumi di carnevale dei Simpson che abbiamo messo una volta sola e hanno ricreato la sigla. Io l'ho trovato esilarante. Beh, bravissimi, geniale, sì, geniale, sì. Geniale. Devo dire che questo periodo di quarantena sta sviluppando una creatività pazzesca, cioè ci sono dei colpi di genio sui social, io li trovo, rimango spesso stupito, no? Sì, anche perché pensiamo gli youtuber, oggi è uscita anche un'ansa su questo argomento che noi trattiamo anche da un po', che fanno fatica a fare i video perché effettivamente, cioè, youtuber e influencer sono in casa e devono arrangiarsi con quello che hanno. E invece così questa famiglia che dal nulla, compresa la scena della bambina che viene passata sulla cassa del supermercato, bravissimi, sì. Li ho trovati straordinari. Sì, è vero, forse più appunto gli sconosciuti che i, come dire, i fenomeni sì, già sì, strutturati, sì, no? Sì. Mi viene in mente quel ragazzo, e poi bisogna anche dire che, come dire, come arrivano nell'arco di poco tempo, poi magari ce li dimentichiamo, no? All'inizio della quarantena ti ricorderai quel ragazzo che sul balcone un giorno si travestiva da Elettra Lamborghini. Certo che eravamo all'inizio della quarantena e ancora ci ricordavamo Sanremo, che adesso sembrano passati due anni. Esatto. Però devo dire che, come ti ho detto prima, questa dose di creatività mi stupisce molto. E a proposito di famiglie, invece avrai visto anche tu che Bruce Willis e Demi Moore stanno trascorrendo assieme la quarantena, no? C'è questa reunion di famiglia e invece si sono fatti fotografare loro due con le tre figlie con questi pigiami a righe, e anche questa, appunto, questa fotografia è diventata virale in pochi giorni, in poche ore. Oddio, non si può più dire virale, però. No, esatto, come si può dire però? Non lo so, guarda, io utilizzo dei giri di parole perché virale purtroppo, vabbè. Sì, virale, hai ragione. È arrivato il messaggio cattivissimo di un ascoltatore che manda sempre dei messaggi cattivissimi. No, ma diciamo che ogni volta ha degli insulti per me sempre più fantasiosi, però questa volta... Ce n'è anche per te, perché dice che la Bianchetti non sapeva nulla, quanto siete boccaloni idioti. Quindi niente, no, non guarda, ci credono. Invece lo invito a... Io, a parte che incasso volentieri boccalone, ma ti assicuro a questo ascoltatore che invece la Bianchetti non sapeva nulla. Ma non ci crederà. Poi, perché non gli sto simpatico. Ma ce ne faremo una ragione. Allora, Francesco, tu sei troppo giovane. Io ho fatto appena in tempo, ma sicuramente quest'altra sigla non ti frega, anche tu la conosci. Carosello, dopo Carosello tutti a nanna. Vabbè, Francesco, anche se tu non eri ancora nato, io sì, tu non eri ancora nato, però Carosello si conosce, certo, ecco. Ma poi in realtà devo dire che un po' colpa tua, perché tu, come dire, è un argomento che ti piace. Sì, io sono molto particolarmente appassionata di Carosello. Segue, chi ti segue in qualche modo ha imparato anche a... Sì, sui social posto spesso dei caroselli, delle cose, perché sono una collezionista di caroselli e quindi mi piace molto. Potrei definirmi una caroseller. Allora, chi sono i caroseller? Ho scoperto quasi per caso su Instagram questa iniziativa e io sono diventata proprio una delle più grandi fan. Tutte le sere alle 19.45, quindi c'è il fuso orario, un'oretta prima di quando andava in onda Carosello, vero? C'è Carosello is back. Per parlare di questa iniziativa del periodo della quarantena, a proposito di grande inventiva e di grande fantasia, uno dei due padri di Carosello is back. Lui è un pubblicitario, un creativo, ma anche un docente di comunicazione, Paolo Iabichino. Benvenuto a RadioTube, Paolo, buonasera. Ciao a tutti. Io sono una caroseller proprio assatanata. Avete avuto un'idea bellissima che adesso spieghiamo. Come è nato Carosello is back? Ma come tutte le idee più belle, per caso. Giustamente. Penso che è nato a margine di una lezione universitaria che abbiamo fatto io e Giovanni Bocciartieri, sociologo, direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Urbino, a margine di una lezione in cui abbiamo chiacchierato in diretta con gli studenti e con le studentesse. Lezione ovviamente virtuale? Assolutamente sì, ciascuno nelle proprie case. Alla fine abbiamo sentito che in circolo c'era una bella energia. Allora, sai, dopo una lezione, quando ti scambi due messaggi un po' da... per dire, ma cavoli che bella quella cosa che abbiamo detto, a un certo punto dovremmo rifarla. Ecco. e dovremmo rifarla, è diventata sta roba qua. È diventato un obbligo tutte le sere, sabato e domenica compresa. Io l'ho chiamata Carosello is back, poi è vero che ci sono i caroseller che sono veramente dei malati di mente che arrivano tutte le sere alle 19.45, siamo in tanti. E poi la cosa bella è che è una cosa solidale. Allora, spieghiamo. Carosello, per chi se lo ricorda o per chi l'ha scoperto dopo, era fatto così. C'era una storiella e poi lo spot, il codino di pubblicità. E anche voi fate non una storiella, ma raccontate storie di comunicazione, anche di televisione, insomma di tanti argomenti interessanti, e poi date spazio a un'azienda. Assolutamente, facciamo una chiacchiera tra noi due in cui discutiamo di società, di pubblicità, di social media, di cultura digitale, delle cose che ci appassionano, che appassionano i nostri studenti, le nostre studentesse. Poi peraltro il pubblico abbiamo scoperto essere non solo di studenti. Io sarei una studentessa un po' fuori corso. E tu ne sei la prova provata. Poi la cosa veramente bella è che gli ultimi 3, 4, 5 minuti nel codino di puntata la pagina Instagram di un brand si certo. collega con Carosello Is Back. Quindi Giovanni mi sgancia, chiama in diretta il brand, ma guarda che è salita Barilla, è salito Parmigiano Reggiano, cioè, cioè brand grossi. Ieri a Mucchina, cioè Angelini, e però l'inserzione pubblicitaria si paga. Si paga, mica è gratis. Mica. E quindi diciamo, voi vi state facendo i soldi. Ma neanche ma per no. idea, perché tutti i soldi che abbiamo fatto li abbiamo dati, queste le ultime 2 settimane li abbiamo dati alla Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, CADMI Milano, e le aziende che si collegano sono tenute a riconoscere a loro una donazione che è direttamente proporzionale rispetto al numero di spettatori. Quindi più siamo, più loro persone pagano. Si collegano a quella diretta, più il brand che è in diretta paga e i soldi paga. Vanno in beneficenza. È una cosa secondo me bellissima. È per questo che i caroseller si sentono insomma una vera e propria comunità, perché sono lì, poi mentre noi parliamo loro un po' chiacchierano tra loro anche in chat. Confermo. sono nati degli amori no, a parte gli scherzi, è veramente una cosa che ci sta impegnando ma divertendo anche tanto. La variante sul weekend, sabato e domenica, sono interviste monografiche. Dopo dico anche chi è l'ospite di stasera, perché lo so, perché io ho sentito ieri sì, sera vero, che l'hai lanciato, ma lo non so. È bellissimo. Lo so, quello. Dai, però lascio la suspense, lo diciamo alla fine. Okay, Francesco, bene. Hai sentito che c'è un'idea secondo me deliziosa? È un'idea geniale, devo dire, complimenti e poi volevo fare però una domanda, sì. Perché ho visto che a proposito di Caroselli hanno riesumato un personaggio che io amo particolarmente, che ho anche qui sulla mia scrivania, che è il famoso Pippo l'ippopotamo della Lines, certo. Quello storico, e mi ricordo, essendo appunto un appassionato, sono andato a rivedermi i vecchi Caroselli con l'ippopotamo Lines, che hanno appunto, diciamo, la Armando Testa ha fatto un piccolo regalo costruendo appunto uno spot dedicato ai più piccoli, in cui Pippo aiuta i bambini a, diciamo, combattere il coronavirus, quindi gli spiega con una specie di gioco a jouet come lavarsi correttamente le mani, come starnutire, e quindi volevo sapere se lei per caso ha visto questo spot e che effetto le ha fatto. Ma sì, perché Carosello Is Back è anche una piattaforma, nel senso è una pagina una pagina Instagram che pubblica, al di là della diretta, è una pagina Instagram che pubblica tutto ciò che in Italia in questo momento viene fatto a livello televisivo. Quindi evidentemente abbiamo pubblicato anche questo spot di Armando Testa, che ci è molto piaciuto. C'è sia Pippo che Papalla, esatto. un'operazione editoriale. Armando Testa ha questa tradizione straordinaria nel mondo del carosello, perché quando c'era il buon Armando Testa, insomma, di caroselli ne sono stati fatti parecchi, e di personaggi iconografici ne sono stati disegnati anche da loro, Caballero e Carmensita, uno per tutti, insomma, nascono in Armando Testa ai tempi. Sì, è stata una bella operazione da parte loro, poi fatta da un'agenzia di comunicazione senza un cliente di mezzo, molto generosa, mi è piaciuta tanto. Allora, e l'abbiamo pubblicata. Tra poco parliamo di spot, come si dice adesso, voglio trovare un'espressione diversa perché ai tempi del coronavirus mi ha un po' stancato, però parliamo un po' di come sono cambiati questi spot, una breve pausa, poi saremo ancora insieme con Francesco Canino e con Paolo Iabichino. YouTube Social Network. E bambini, siete a casa? Siete pronti? E allora andiamo! Lavare! saponare. E ce l'avevamo Pippo, Strofinale. Che così il vecchio ippopotamo della pubblicità tornato, di Carosello, che è tornato in versione educativa per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo sempre il nostro co-conduttore d'eccezione con noi, Francesco Canino. Ciao Francesco. Ciao Marta. E poi Paolo Iabichino, che è uno dei due papà insieme a Giovanni Bocciartieri di Carosello is Back. Paolo, eccoti. Ciao, buongiorno. Allora, Paolo, ti faccio sentire due pezzettini di due pubblicità che sono state create in questo momento. La prima. A questo silenzio che protegge le nostre strade e alla vita che grida dai balconi, a chi è fermo ma si muove, e a chi dà Sofia tutto Loren con la vecchia pubblicità stremato, che alle medie suonavamo tutti col flauto dolce di Vangelis per Barilla. Non è l'unico spot che vorrei segnalare, ce n'è un altro che prego adesso Peter Bescapè di mandare, per FCA, cioè Francis Ford Coppola. Ciao Italia, it's quite a time, huh? We know things are difficult, but we have found ourselves in tougher times before. You know what? Allora, due simboli dell'italianità nel mondo, anche altra frase fatta, Sofia Loren, Francis Ford Coppola per Barilla e FCA. Paolo, Paolo Iabichino, cosa pensi di questi spot, di questo instant marketing in bilico, no? Tra compriamo tutti questo prodotto perché siamo italiani e forse un po' di retorica, non lo so, cosa ne pensi? No, vabbè, allora intanto non lo classificherei nella categoria instant, visto il momento che stiamo vivendo. Secondo me certe operazioni da parte di certe brand sono un po' dovute, no? Non so come dire, sono anche attese. Il consumatore se l'aspetta, sembra strano, ma rassicurano. Infatti la prima sera in cui è andato in onda questo della Barilla con la musica sui social, su Twitter, tutti a l'infanzia, la musica che suonavamo col flauto dolce. È piaciuto, sai cos'è Marta? Che poi ne sono arrivati tanti e tutti insieme, tutti uguali, quindi alla fine, ecco, un po' ci è venuta meno la voglia di vederli o di condividerli banalmente, che poi forse è la cosa più importante quando facciamo, per noi che scriviamo questi oggetti, la cosa bella è quando qualcuno lo condivide perché gli è piaciuto, lo commenta favorevolmente, cose di questo tipo. Beh, insomma, secondo me negli ultimi anni il vostro mestiere è cambiato anche in questo, perché prima la pubblicità la vedevi sul giornale, sulla fissione, l'ascoltavi la radio, la vedevi in TV, adesso deve anche essere condivisa in rete. Per fortuna, nel senso che io ho sempre scritto pubblicità prevalentemente digitale e quindi con questo tipo di registro ci ho fatto i conti praticamente da subito. Certo. I colleghi della pubblicità, diciamo, televisiva più tradizionale hanno imparato poi più tardi che insomma il consenso della tua creatività passa finalmente non solo da quanto viene comprato dopo uno spot, ma soprattutto come uno spot viene recepito in rete e viene condiviso, viene accettato o banalmente criticato con intelligenza perché magari ha toccato delle corde inadeguate a un momento particolare, che lo sai benissimo, ne succedono di ogni. Certo. E noi siamo sempre più in ascolto, i nostri clienti anche ci chiedono proprio di misurare anche ciò che scriviamo attraverso il consenso che la rete esprime. Sì, perché potrebbero essere non solo poco utili ma controproducenti, perché poi ci sono dei veri boomerang. Tra l'altro sta succedendo una cosa buffa. Al 349-238-6666 un ascoltatore ha mandato un WhatsApp di una catena con una fake news di una nota catena di supermercati che regalerebbe buoni gratuiti per 250 euro. Ragazzi, se queste cose vi arrivano via WhatsApp, molto probabilmente non sono vere, infatti non è vera. Allora, io sono abbastanza tranchant su questo. Lo so che può sembrare ozioso o superficiale parlare di pubblicità, però la pubblicità è uno specchio dei tempi. Cioè, se noi guardiamo un carosello degli anni 60, una pubblicità di fine anni 70, cioè ci troviamo noi di quel periodo. Secondo te, Paolo, che cosa succederà adesso? Perché già tanti spot ci sembrano totalmente anacronistici, gente che si tocca, che si bacia, che ti viene da dire no, ma cosa state facendo? Adesso cosa succederà, Paolo? Ho tantissima paura di quello che potrà succedere. Molto, molto dipenderà chiaramente dalle restrizioni sanitarie a cui andremo incontro. Tantissimo delle nostre abitudini, parlo proprio di abitudini sociali, dei nostri comportamenti, tantissimo cambierà. E credo che la pubblicità dovrà inevitabilmente registrare questo nuovo corso e comportarsi di conseguenza. Guarda, paradossalmente, adesso sembra che io tiri l'acqua al mio mulino, ma ti assicuro che non è così. Ma paradossalmente, deve tornare un linguaggio straordinario che la pubblicità ha utilizzato per tanto tempo, che è quello dell'animazione. Perché l'animazione ti permette di mettere in scena dei racconti, delle storie, senza necessariamente innescare quel meccanismo di, in gergo si chiama mirroring, no? di rispecchiamento di quello che tu stai vivendo, e lo porta dentro una cifra un po' più onirica, no? più favolistica. E io auspico che questa cosa un po'. Devo dire che l'animazione, grazie a Carosello, ha fatto sì che in Italia ci fosse una scuola di animazione meravigliosa. Quindi pazzesca. Abbiamo degli illustratori straordinari in Italia, abbiamo animatori bravissimi. Quindi, perché no, Marta? Senti, se. Io credo che un po' di animazioni in più forse nel futuro prossimo venturo ci possa aiutare, probabilmente qualche collega sta già in questo senso. Certo, tanto costa, non è che costi meno, costa come girare, quindi... Cioè, forse costa meno che chiamare Sofia Loren. Adesso non lo so, io non conosco i tariffari, ragazzi, non è che sono preparata. Paolo, però, a questo punto c'è l'assist. Chi è il tuo ospite di questa sera in diretta Instagram sul tuo profilo Iabicus per Carosello is Back? Chi è? Chiacchiererò per un quarto d'ora abbondante con il maestro Bruno Borsetto, che insomma ai tempi del Carosello qualcosa di importante ha disegnato e poi soprattutto dopo ha fatto dei cortometraggi molto molto belli, e sarà una bella chiacchiera per che il Carosello. Che meraviglia, Francesca, hai sentito? Una roba bellissima, io sono pronta. Assolutamente. Cioè diventa anche tu un caroseller, ecco, questa sera. Sì, sono diventato subito un follower, e prendendo l'aperitivo questa sera, ovviamente seduto sul divano di casa, guarderò anch'io ovviamente questa chiacchierata. Meraviglioso. Allora, Carosello is Back, fate così, seguite l'account Instagram Carosello is Back, anche perché a volte le dirette sono sul profilo di Paolo Iabichino, altre su quello di Giovanni Bocciartieri. Voi mettete sempre sull'account Instagram l'ora, il personaggio, chi conduce la diretta, sì, da quale profilo, così gli ascoltatori sanno dove devono andare. 19.45, mi raccomando, poi siccome... di solito appunto c'è lo sponsor e lo sponsor paga per tutti i follower che vanno a vedere la diretta e i soldi vanno in beneficenza, mi pare un'ottima iniziativa. grazie da una caroseller a Paolo Iabichino. Grazie Paolo. Grazie, ciao, buona serata. Ciao. Allora più ciao. Tardi sul suo profilo Instagram, perché davvero non vedo l'ora di sentire questa chiacchiera con Bruno Bozzetto. Adesso vi faccio sentire un pezzettino di qualcosa che è successo questa settimana. Vince la quarta edizione di Grande Fratello VIP, Paola! Allora, è finito il Grande Fratello VIP, Francesco Canino, allora, quanto abbiamo pensato alle persone chiuse nella casa del Grande Fratello mano a mano che cambiava la situazione in Italia? Ma allora, io l'altro giorno mi sono divertito a dare un po' i voti ai protagonisti sul sito di Panorama, su panorama.it, e devo dire che poi sfogliando un po' l'album dei ricordi di questo Grande Fratello, mi sembrava di andare a ripescare nella memoria di una vita fa, cioè certo. Le prime settimane di gennaio io mi ricordo che guardavo Barbara Alberti come dire, ero ipnotizzato da appunto lei che teneva banco nella casa, toccava tutti i concorrenti, li abbracciava, li sosteneva, ed era veramente una vita fa. Se ci pensiamo, invece, sono passate appena 3 mesi, 4 mesi nemmeno. Allora, e poi nel frattempo loro sono stati informati di quello che succedeva, però esatto. In rete c'erano anche... Io non so anche... però che... Esatto, che percezione abbiano avuto di quello che stava capitando. Infatti, cioè, in rete ce lo chiedevamo un po' tutti, poi c'erano anche quelli che un po' scherzavano, dicevano gli unici immuni sono quelli del Grande Fratello, esatto, che sono sigillati nella casa, ma soprattutto ci si chiede, cioè, chi è uscito qualche giorno fa e ha trovato un mondo completamente diverso, chissà che cosa ha provato, che cosa ha pensato. E allora cosa facciamo? Ci colleghiamo con un amico di RadioTube che è appena uscito dalla casa del Grande Fratello, perché è stato uno dei finalisti ed è una persona che non vedevo l'ora di risentire, non vedrei l'ora di riabbracciare, ma purtroppo non posso ancora. Aristide Malnati, ciao Aristide. Ciao Marta, ciao a tutti. Ari, quanto sei stato nella casa del Grande Fratello VIP? Tutto il tempo possibile, 90 giorni praticamente, 3 mesi. Quindi, 90 giorni. Quando sei tornato? Sono tornato, guarda, finita la puntata a Cinecittà, abbiamo festeggiato, ci siamo salutati, mi hanno subito messo in macchina e 5 ore dopo ero a Milano, quindi sono tornato alle 7:30 del mattino del giorno stesso, di giovedì. Allora, facciamo una cosa, diamo la linea al traffico, perché poi io voglio sapere da te, Aristide, dopo te lo chiedo, che cosa hai trovato e che cosa hai provato uscito dalla casa del Grande Fratello a trovare l'Italia vuota. A tra poco! RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme per gli ultimi minuti del nostro RadioTube Social Network, sempre con Francesco Canino, nostro co-conduttore a distanza. Francesco, ce l'abbiamo Francesco Canino, eccolo qua. Voglio poi salutare Aristide. Esatto, e Aristide Malnati, appena uscito dalla casa del Grande Fratello. Francesco. Ciao Aristide, volevo soltanto dire una cosa a Marta, raccontarti questa. No, anche perché voglio sapere, visto che hai dato le pagelle, che pagella hai dato ad Aristide? No, ho dato un voto alto, ovviamente. Non siamo amici, ma ci siamo conosciuti bene quest'estate, perché appunto io ho lavorato alla redazione di Chi. E mi ricordo però che a gennaio, pochi giorni prima che Aristide entrasse nella casa, gli avevo chiesto insomma che previsioni e quanto pensava di resistere. Lui mi ha detto: guarda, non resisterò più di una o due nomination. E gli ho detto: vedrai che andrà diversamente. E infatti ha fatto tutto il percorso fino alla finale, quindi io sono molto contento. È stato lui. Un buon profeta e ti devo ringraziare, in effetti. Ho sorpreso anche me stesso con questa durata prolungata. Fantastico, grande Ari, grande Aristide. Senti, però, allora, a questo punto mi devi dire che impressione ti ha fatto l'Italia, che impressione ti ha fatto Milano. Ma una sensazione straniante, surreale, da the day after proprio. Ci avevano preparato, devo dire, eravamo informati capillarmente sia sulla situazione dei nostri cari che sulla situazione in generale dell'Italia e del mondo, perché poi questa è una tragedia planetaria. Certo. Però, per quanto fossimo preparati, la realtà ha superato ogni immaginazione. Noi ci eravamo immaginati degli scenari in certo modo, ci si diceva con i ragazzi, soprattutto con gli altri finalisti, troveremo questo e quest'altro, ma poi l'immaginazione, la realtà è andata oltre l'immaginazione. Cioè, ti sei stupito di vedere, ad esempio, non so, le strade deserte? Assolutamente, sono entrato in Milano, i tram circolavano vuoti, c'era solo il conducente con la mascherina, le strade erano deserte, circolava qualche macchina di persone che andavano al lavoro, ma erano, c'era una sola persona per abitacolo ed era naturalmente con la mascherina, poche persone in strada a debita distanza. Poi io sono andato a casa di mia mamma e sono andato poi nel corso della giornata a fare la spesa e ho visto queste code distanziate ai supermercati, un clima surreale da, da grandi epidemie del passato, di quello che raccontano le cronache medievali. Insomma. Ecco, vedi Francesco, era proprio, cioè noi poco a poco ci siamo abituati a questo e infatti io a volte mi immagino, no, ma se qualcuno piombasse qui all'improvviso, che e questo è l'esempio, no Francesco, è incredibile, perché sì, per pazzesco, loro è stato... Sì, sì, insomma, no, da... Passare da, come dire, da una situazione così ovattata, per quanto poi appunto ti possano raccontare e tu possa provare poi a immaginare, in realtà poi tradurre l'immaginazione in realtà raddoppia forse lo straniamento, no? In qualche modo. Sì, sì, sì. Mi ha detto Anna Rita, che è la nostra amica Anna Rita D'Ambrosio, che ovviamente conoscete per via di Radio 24, ma insomma siamo amici di bisboccia, possiamo dirlo, che una delle cose che tu le hai chiesto al momento è stato: ma quindi non ci possiamo vedere? E no, non ci possiamo vedere. Esatto, era come un bambino venuto al mondo improvvisamente, ho chiesto delle cose che per voi sono ovvie e adesso lo sono anche per me, adesso... ma che inizialmente hanno costituito diciamo uno straniamento per me, una cosa impensabile, però adesso diventano familiari purtroppo giorno dopo giorno. È comunque stata un'esperienza nell'esperienza, devo dire che assolutamente, è una cosa che secondo me ti ha cambiato ancora una volta la prospettiva. Totalmente, sì, totalmente, perché una cosa del genere mai me la sarei immaginata, mai mi sarei immaginato una situazione come quella del coronavirus, ma addirittura viverla come l'ho vissuta io, da ovattato in una casa asettica, poi improvvisamente sbalzato tutto di una volta in una realtà, nella realtà devastante, è stato un piccolo shock, insomma. Allora Aristide, io devo solo darti una raccomandazione di carattere totalmente personale. Devi cambiare il telefonino perché dobbiamo fare le videochiamate, perché adesso devi sapere che si fanno gli aperitivi in chat, in video chat, te l'hanno spiegato, te l'hanno detto, ok? È una cosa che mi intristisce un po', perché poi, no, io spero, poi per ti abitui diretto. No, tranquillo, ti abitui dopo ti, certo, abitui. No, sì, ma ho già provveduto a ordinare online un, bravo, telefonino che arriverà settimana prossima. Devo, bravo, un attimo abituarmi, perché per me è come guidare una Ferrari, però ce la farò. Perfetto. Confermo, perché Aristide ha questo telefono, insomma, diciamo quasi preistorico. Sì, no? sì, lui è noto tra gli amici, esatto, per questa cosa. Allora, adesso ti tocca, perché quegli aperitivi che facevamo fino a qualche mese fa, adesso per un po' li dobbiamo fare solo online. Quindi, preparati. Allora, la prossima settimana ti aspettiamo. Grazie ad Aristide Malnati, un abbraccio grandissimo. Grazie, che non vedo l'ora di farti di persona, tutti, chissà quando. Grazie, Aristide. E insomma, Francesco, che roba assurda, eh? Pazzesco, davvero. Poi pazzesco, tra l'altro, Aristide, che è anche un appassionato di viaggi, è anche quello, no? È un altro grande tema che dovremmo in qualche modo abituarci a vedere in una prospettiva completamente diversa, perché insomma difficilmente potremo partire e viaggiare come facevamo prima, almeno per, certo, un po' di tempo. Un ascoltatore, Irrere, su Twitter, affezionato e sempre con commenti arguti: per assurdo questa volta l'esperimento sociale non è stato il soggiorno ma l'uscita dal Grande Fratello. È così. Alla, esatto, fine è stato un esperimento, un nuovo esperimento al quale non, insomma, che non era previsto. Allora, parliamo un po' di youtuber, perché noi sempre nell'ultimo spicchio di RadioTube parliamo dei video in tendenza. Adesso sono pochi quelli interessanti, perché per gli youtuber, lo dicevamo prima, è difficile avere spunti di creatività chiusi in casa, cioè possono fare, hanno un raggio d'azione molto molto più piccolo, Francesco. Sì, inevitabilmente, insomma, no? Appunto, non potendo muoversi, non potendo uscire di casa, non potendo anche usare insomma tutti gli strumenti tecnologici a cui erano abituati, no? Perché molti di loro sono ormai dei professionisti incredibili, no? Cioè usano anche le nuove tecnologie in maniera molto molto sapiente. E poi magari molti sono non youtuber singoli ma dei gruppi e quindi certo, essendo ognuno a casa sua si devono inventare delle cose. Io sono pazza di loro, ho fatto una volta una scena da fan perché li ho trovati mentre giravano uno sketch vicino al Cinema Anteo a Milano e sono andata a stringergli la mano tipo fan, una figura barbina, l'avevo già raccontata sta cosa veramente senza... I Nirchiop secondo me sono bravissimi e hanno fatto un video che hanno pubblicato proprio poche ore fa, già un sacco di visualizzazioni su YouTube, la Pasquetta 2020, eccola qua. La Pasquetta, non piace. C'è bel tempo, c'è bel tempo, naturalmente c'è bel tempo, a Pasquetta di quest'anno c'è bel tempo per 40 anni, c'è sempre stato un tempo di merda. Proprio quest'anno deve esserci un tempo bellissimo a Pasquetta, c'è il sole a Pasquetta, lo scopo non è scientifico tra gli amici più vecchi della compagnia. Comunque Pasquetta è Pasquetta, beviamo insieme. Ma Mirko e Piero? Prada? Mi vedo. Pronto? Si sente niente qua, Mirko. Noi abbiamo già iniziato fuori a bere. Pronto? Mamma? Sì, auguri, auguri. Dai gli auguri anche alla nonna, ti voglio bene. Un bacio. Sei che scherzo, Mirko! Come fai? Sei che scherzo, sono un campione di quello. Vai a vomitare di là, vai a vomitare di là! Passi a cagare il decreto. Non esca! Non esca, rientri subito in casa o la spariamo! Ma vi ricordate quella Pasquetta quando Mirko si ruppe tibia e perone? O di quando Anna venne arrestata perché rubò la scimmia? O quando Gabriele si fece la mamma di Nico? Che avete detto? Raga, che avete detto? Ragazzi? Raga? Mamma? Vabbè, loro sono bravissimi. È stato pubblicato da poche ore. In questo momento ha 146.215 visualizzazioni. Il canale ha 1,18 milioni di iscritti. Poi non abbiamo tempo di vederlo. No, non abbiamo tempo di vederlo, ma c'è quello dei Pantellas che hanno fatto un altro video sulle video lezioni, studenti contro prof, anche lì con featuring di Favij, altra web star, altro youtuber famosissimo, 1.700.000 visualizzazioni, anche quello insomma hanno fatto di necessità virtù, hanno messo in scena delle video lezioni, insomma agli youtuber tocca giocare di fantasia un po' come noi, perché anche noi tecnicamente dobbiamo inventarci delle soluzioni, però Francesco mi sembrava che tu fossi qui vicino a me, anche se sei lontano. Sì, anche a me devo dire, mi è sembrato, mi è mancato solo il profumo, ma poi per il resto tutto insomma. Sì, l'abbraccio esatto. Allora esatto. Francesco, io questo abbraccio anche ancora una volta te lo do da lontano, sperando, e non è retorica perché qui queste sono amicizie vere, di dartene presto uno forte, chi lo sa, speriamo presto. Grazie a Francesco Canino per essere stato grazie con noi, te, un bacio grandissimo, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua e buona Pasquetta, speriamo di non fare la fine di quelli dei Nirchiop, molto carino. Allora devo fare i ringraziamenti e anche gli auguri a tutti quelli che hanno lavorato con me anche oggi, quindi Peter Bescapè in in assistenza qui a Milano, Edoardo Lavezzari, in remoto, che poi adesso mi manderà la pagella su WhatsApp, l'aspetto per sapere com'è andata la puntata, al nostro Alessandro Schirano. Senza di lui, come sempre, niente può funzionare. Vi auguro davvero una buona Pasqua. Io tanto sono sempre qua, sono tutti i giorni, non vi libererete di me, sono in turno tutti i giorni a Radio 24, però con Radio Tube ci ritroviamo sabato prossimo. Buona Pasqua! We'll be right back.